Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1997, io sono sempre Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui, Franco Schipani. Ciao Alessandra, e allora per dare subito un senso a questo 1997, per vedere un po' qual è la temperatura di quell'anno, vi faccio ascoltare il brano più venduto, ballato e cantato di quell'anno. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. I'll be missing you, Puff Daddy, Faith Evans e 112. Quanto è bello, bellissimo. Hai visto che stanno continuando a recuperare tutti i brani belli del passato, li rendono un po' moderni e vanno in classifica, perché questo brano è su un campionamento di Every Breath You Take dei Police, brano del 1983. E tu sei felicissimo di questo ritorno al passato. Assolutamente sì. Beh, te ne faccio sentire un altro. In black, remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. E questo è la colonna sonora, uno dei brani del film Men in Black di Will Smith, che tutti già conoscevano come grandissimo attore televisivo della serie televisiva The Prince of Beverly Hills, che lo ha lanciato. E anche lui ha detto: Bel-Air, ma sì, il principe di Bel-Air, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Certo. Ecco, anche lui è andato un po', diciamo, nel passato a recimolare, a ripescare, ha preso Forget Me Nots di Patrice Rushen. Capito? Capito, e poi? E poi te ne faccio sentire, ma sì, dai, proseguiamo così. Flexi, let me know if my flow be sexy. Do you think I'm sexy? Oh! Molto, Franco, lo sai moltissimo. Questo è Entrance and Rod Stewart, però a differenza degli altri brani, Rod Stewart ha detto: ma sai che il pezzo è mio, allora ci metto anche la faccia. Quindi continuano a tornare. Continuano a tornare, assolutamente, Alessandra. Franky, mi sembra che per la musica sia un anno molto promettente, però questo 1997 è un anno denso anche di notizie di cronaca, di politica e di fatti che sono un po' a cavallo tra cronaca e politica. Per esempio questo, a Venezia, la notte tra l'8 e il 9 maggio, un gruppo di nostalgici della Serenissima Repubblica di Venezia, sono 8 persone in tutto, dirottano un traghetto e occupano il campanile di San Marco perché hanno un sogno comune, il Veneto indipendente. Era l'ultima corsa che facevamo, stavamo partendo per l'ultima corsa e sono venuti, si sono imposti con la forza per salire a bordo solo loro. Dicevano: noi siamo della Serenissima Repubblica, del governo veneto e abbiamo delle cose importanti, ragazzi state calmi, non preoccupatevi. E alcuni erano vestiti in divisa militare, pseudo militare, sembravano militari. Era la voce del capitano del traghetto dirottato. E questo fatto di cronaca. Ma no, scusa, dimmi. Mi sembra la banda degli onesti. Cioè un film, una trama di un film. Si va a dirottare un traghetto. Un traghetto per creare appunto il Veneto indipendente. E ti dicevo che questo fatto di cronaca naturalmente assume un risvolto politico, anche perché in qualche modo il terreno politico nel quale l'episodio è maturato è quello della Lega Nord. E comunque l'intero mondo politico condanna l'episodio. e lo stesso Bossi prende le distanze. Bisogna insomma che tutte le forze politiche diventino davvero responsabili nei confronti della gravità del momento. Prima di tutti ovviamente la Lega, perché è indubitabile che la Lega con queste campagne assolutamente demagogiche, forsennate, ormai anche un po' razzistiche, beh, alimenta questo humus. Ritengo una fessaggine totale pensare che dietro queste provocazioni ci sia la Lega, ma è indubitabile che la demagogia della Lega può accendere cervelli immaturi. Torni la Lega nella commissione bicamerale a fare il suo dovere nel Parlamento. In un grande paese democratico si combatte per le riforme nel Parlamento, dove si va sulla base del voto dei cittadini, non occupando i campanili. Ecco, abbiamo sentito le voci di Cacciari, sindaco di Venezia, e di Massimo D'Alema, che invita Bossi a entrare nella bicamerale. Infatti, proprio la nascita della commissione bicamerale per le riforme istituzionali è un'altra importante novità di questo 1997. Massimo D'Alema è appunto il presidente della bicamerale, il cui compito è discutere la riforma della Costituzione. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, I didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, nothing really matters. You get refused, but you don't die. Yeah, you hurt for a word, for a plan, you don't know a show. Erano i Braids con Bohemian Rhapsody. Beh, ci vorrebbe anche però un attimo di vergogna, perché va bene andare a prendere il passato, ma quando è troppo è troppo. Ci dovrebbe essere una legge speciale per non fargli fare queste cose. Comunque Bohemian Rhapsody, lo ricordiamo, è un brano famosissimo dei Queen, tratto dall'album Night at the Opera del 1975. Invece questi altri non hanno bisogno di copiare gli U2, hai visto? Sono arrivati con Discotheque e hanno fatto il delirio. L'unica cosa divertente è che loro poi hanno realizzato un video a New York, dove sono andati in una discoteca, si sono travestiti da Village People. Ma dai, assolutamente, beh, carino, molto. Comunque Franchi, abbiamo capito perché ormai sembra che nella musica nulla si crei, e tu di questo sei molto molto contento. Però gli italiani io non ne vedo pervenuti ancora. Forse è il caso di rimediare, che dici? Guarda, il primo nelle classifiche dei 45 giri del 1997, lo troviamo al 16° posto ed è lui. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Dov'è? Mi manca, sai, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile provi a scappare, lei già. Mix 24, musica e storia. Se vogliamo adesso. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Siamo nel 1997. Frankie. Questo è Neck con Laura non c'è, grande brano di successo appunto di quell'anno. E infatti si scatenano in regia, perché la Caracciolo la conosce, no, questa? Ma si scatenano, sai perché? Perché mano a era mano abbastanza che, grande, cioè parliamo sempre di nove anni, non sì, di più. Ma però mano a mano che andiamo avanti negli anni, regie che sono leggermente più giovani di noi, di entriamo nel loro, grazie Alessandra, grazie, sì. Entriamo sempre, capito, nel loro nel mood, nel coso, nel file teenager, esatto. Sopra di, e quindi cominciano ad apprezzare il cuore, l'emozione ci fa rivivere delle cose incredibili. Incredibili, comunque, per rivivere emozioni incredibili, io guarda, ti vorrei far ascoltare il tormentone del 1997, però so Bravo. Che mi devi dire qualcosa. Esatto, perché prima del tormentone dell'estate, il 15 giugno, mentre quel tormentone sta iniziando a suonare, si svolgono le votazioni per 15 referendum abrogativi promossi dai radicali. Obiezione di coscienza, abolizione dell'ordine dei giornalisti, abolizione del sistema di progressione delle carriere dei magistrati e altri. Nessuno dei quesiti referendari raggiunge il quorum, per cui tutto resta com'era. E intanto ad aprile e a novembre si tengono le elezioni amministrative in molti comuni, elezioni che vengono ricordate come la grande vittoria della sinistra. Infatti ci sono alcune importanti riconferme, che sono per esempio Francesco Rutelli a Roma, Massimo Cacciari a Venezia, Antonio Bassolino a Napoli, Leo Luca Orlando a Palermo, mentre per la sinistra vincono Vincenzo De Luca a Salerno ed Enzo Bianco a Catania, che oggi è di nuovo sindaco sempre di Catania. Invece Milano viene espugnata dal centrodestra e diventa sindaco Gabriele Albertini. Ma intanto al governo inizia un grande scontro tra Rifondazione Comunista e l'Ulivo. Il partito di Fausto Bertinotti, infatti, che aveva firmato, l'abbiamo detto, il patto di desistenza con l'Ulivo nelle elezioni, vota prima contro la missione Alba in Albania del governo Prodi, missione che viene approvata proprio grazie ai voti del Polo, e poi annuncia il voto contrario alla finanziaria. Prodi consegna le dimissioni, ma Bertinotti, il giorno dopo, si dice pronto a un nuovo accordo. Il governo ottiene la fiducia alla Camera e non cade, o almeno non ancora. Insomma, cadrà a breve, nel 1998, e ve lo racconteremo venerdì prossimo. Ma intanto, Franco, vorrei sapere del tormentone. Sì, vorrei tornare allora, al tormento, eccolo, al eccolo, sottofondo. Eccolo il tormentone. Barbie Girl degli Agua. Allora Alessandra, ma tu dimmi, avevi caro, le Barbie? Beh, Frankie, certo che avevo le Barbie. Alcuni vestitini, le casette. Ma guarda, tutto. Ma ti devo dire anche c'era il Big Jim. Non mi dire che avevo avevi anche lui. Non mi dire che avevi anche Big Jim. E ti dico che è stato fonte sia Barbie che Big Jim di infiniti problemi. Modelli sbagliati alla nascita. Cioè, volevi vestire Big Jim con i vestiti di Barbie? No, no, volevo essere come Barbie. In fondo, perché no, anche avere un fidanzato come Big Jim, che poi si capiscono tante cose nell'età adulta, non trovi? Ah, ho capito, ho capito. Molti problemi. Vabbè, senti, a proposito di bamboline. Like I never needed love before. Franchi, oggi comunque un po' mi commuovi. Sì, ho visto delle luci spente in regia. No, vabbè, comunque le Spice Girl dovevamo farle sentire prima o poi, perché ecco, loro sono nate come un fenomeno di marketing, sono nate con una fotografia messa appunto accanto alle vetrine dove c'erano le Barbie Girls, no, non sbagliata come no, operazione, no, in no, è andata benissimo. A un certo punto, ma sai che, cioè, siccome ci conoscono tutti, sì, ci vedono dappertutto, ma perché non cantiamo anche? Hanno avuto successo, perché hanno avuto successo poi anche negli Stati Uniti con questa canzone, tant'è vero che i video hanno cominciato a girarli proprio negli Stati Uniti. Ecco, e mentre le Spice Girls conquistano l'America, il 12 gennaio del 97 a Piacenza, poco prima di entrare in stazione, un pendolino in servizio sulla linea Milano-Roma deraglia. Sono 8 morti e 36 feriti. Le cause indicate sono diverse. Viene smentita l'ipotesi della bomba su cui si era pensato, perché sul convoglio viaggiava anche l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Errore umano o tecnico e velocità eccessiva vengono considerate poi le ipotesi più accreditate. Comunque ogni anno a Piacenza, il 12 gennaio, i familiari delle vittime si riuniscono nel luogo della strage per ricordare. Cascasse il mondo, noi siamo qui, perché è qui che è successo ed è qui che sono loro, anche se sono anche sempre nel nostro cuore. È vero che sono passati 20 anni, è passata una vita, che ci hanno cambiato la vita. Le cose importanti che dovrebbero essere fatte per evitare certe tragedie non sono mai fatte, perché purtroppo è così, si promette, si dice, però poi a conti fatti non c'è niente di concreto. E il 26 settembre del 1997, numerose e devastanti scosse di terremoto scuotono l'Umbria e le Marche e si contano 11 morti, 126 feriti e oltre 32.000 senza tetto. Tutta questa casetta mia bella. Dove era, signora? Era a letto lei? Sì! Senta, questa è casa sua, ovviamente. Eh sì, è casa di mia madre. Lei era qui? No, a Foligno. Le scosse continuano per quasi un anno intero e in quella giornata di 20 anni fa il sisma dà anche un durissimo colpo al patrimonio artistico e archeologico del nostro paese. Infatti crollano parte delle volte della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, che è conosciuto in tutto il mondo per gli affreschi di Giotto e Cimabue. Ci sono 4 vittime e il video con la nuvola di polvere che si alza dalle macerie e investe tutto fa rapidamente il giro del mondo. Resta un'immagine simbolo di quel terremoto e in questi giorni, purtroppo, di immagini simbolo ne abbiamo continuamente moltissime. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Yeah. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog, ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. State ascoltando un programma offerto da... Il colesterolo in eccesso può causare problemi al cuore. Danacol, grazie agli steroli vegetali, lo riduce fino al 10% in 3 settimane. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1997, io sono ancora Alessandra Fiori e qui c'è sempre lui, Franky Schipani. Allora Alessandra, questo che stiamo ascoltando è All By Myself di Celine Dion. Anche qui una versione nuova di un brano del 1975 famosissimo di Eric Carmen, che ha avuto un grossissimo successo. Per me però, guarda, dimmi. Per me resta Celine Dion, ti è rendi conto? Lei. Rimane lei. Ecco il ti gap rendi generazionale. Il gap è questo, ecco, alla fine. Franky, ma il Festival di Sanremo? E il Festival di Sanremo ne dobbiamo parlare, perché è inevitabile, ogni anno lo presenta Mike Buongiorno, c'è anche Piero Gambretti che è rimasto famoso per quella sua discesa sul palcoscenico vestito da angelo appeso ad un filo, e poi c'era anche Valeria Marini e vinse questo gruppo. Fiumi di parole, i Jalis, che vinsero il Festival di Sanremo e poi sparirono dalla circolazione. Io un po' li ho rivalutati, però, sai? Perché io in questo istante. In questo, perché il in brano non è assolutamente fiumi mai. Fiumi di parole. Fiumi di parole. Quante se ne dicono, Franky, eh? Se ne dicono troppe. Troppe. Consumate queste parole, non hanno molto più significato. Abusate. Sì, vengono troppo usate e quindi non hanno più significato. Comunque. Invece nella categoria giovani arriva lui che vince il premio della critica. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Non mi sono pettinato con le pomme a mano. Capelli, Nicolò Fabbi, che appunto vince il premio della critica, quindi automaticamente l'anno dopo viene invitato a ripartecipare, però questa volta nella categoria campioni. E in quest'anno, Franco, nel 1997, la mattina del 9 maggio, circa alle 11.42, a Roma, nella mia università, alla Sapienza, accade un fatto gravissimo. Un'aggressione che lascia davvero sgomenti all'interno dell'università La Sapienza di Roma. Una ragazza di 22 anni è in questo momento in fin di vita, anzi clinicamente morta. È stata ferita alla testa da un colpo d'arma da fuoco. Chi ha sparato e perché è un mistero. Ed eravamo davvero tutti increduli e sgomenti. La ragazza colpita è Marta Russo, studentessa di giurisprudenza 22enne, appunto colpita alla testa da un colpo di pistola mentre attraversa uno dei viali della città universitaria di Roma. Dopo 5 giorni di ospedale, Marta muore e il suo omicidio sarà uno dei più complicati casi di cronaca affrontati in quegli anni nel nostro paese. Subito le piste sono scambio di persona, delitto perfetto, sparo accidentale. E sotto accusa vengono messi 2 assistenti universitari, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro. Essere accusato di avere ucciso una studentessa nel mezzo dell'università è la calunnia peggiore che mi poteva capitare di dover subire nella vita. E se io avessi avuto una qualche responsabilità l'avrei ammesso immediatamente, fin da subito, fin dal giorno 9 maggio. Io un giorno, spero non lontano, spero che la verità venga fuori, e quel giorno il padre Donato Russo, invece di guardarmi con odio e con disprezzo, io penso che mi abbraccerà. Io voglio la verità, Volta. Certo, professore, però sì, sono contento di oggi di poter parlare con lei finalmente faccia a faccia. Io posso dirle con estrema forza, tutto con falso, estrema serenità, che non c'entro nulla con l'assassinio di sua figlia. Nel 2003 viene condannato in via definitiva per il delitto Giovanni Scattone, con l'accusa di omicidio colposo aggravato. Salvatore Ferraro viene condannato al solo reato di favoreggiamento, ma entrambi si sono sempre professati innocenti. Dobbiamo tornare a noi, torniamo alla musica. Vuoi tornare alla musica? Sì, torniamo alla musica, torniamo a Sanremo. Con il brano di un artista internazionale, forse quello che quell'anno ha avuto maggior successo. Questo è Lionel Richie, All Night Long. All Night Long. All Night Long. Io mi ricordo che l'ho intervistato a New York in una discoteca giù a Tribeca. A Tribeca. Me lo ricordo perché in questa discoteca dove si entrava tardissimo e si usciva la mattina. Ma la mattina è un inferno. Ma l'idea era stata geniale perché all'uscita hanno allestito un piccolo supermarket dove tu, andando a casa alle 3 o 4 del mattino, potevi comprare biscotti, latte, cioccolate. Potevi comprare le cose alle 7 e alle 8 del mattino. No, le cose per la colazione, capito? Ti facevo più nottambulo. Secondo me facevano più soldi all'uscita che all'ingresso. Questo è possibile. Assolutamente, che quando uscivi da lì avevi una fame terribile. Frankie, rimaniamo lì, negli Stati Uniti, perché il 15 settembre negli States nasce una cosa che cambierà per sempre le nostre vite, perché è lui, è Google. Ci pensi, Frankie, a quanto era diversa la nostra vita prima? Non riesco neanche a immaginabile, in effetti. Assolutamente. Comunque, sempre negli Stati Uniti, il democratico Bill Clinton viene confermato presidente e inizia il suo secondo mandato, mentre Madeleine Albright è la prima donna a essere nominata segretario di Stato. E invece in Gran Bretagna, a maggio, Tony Blair vince le elezioni. Nel tradizionale discorso davanti al numero 10 di Downing Street, il leader laburista parla di fiducia dei cittadini nella politica, di scuola che non deve essere un privilegio di pochi, di sanità. Insomma, dopo 18 anni di governo conservatore, a 41 anni Blair diventa il più giovane leader laburista dalla Seconda Guerra Mondiale. Che male c'è, che c'è di male, se la mia vita ti ha... Insieme a te sto così bene. E questo è Pino Daniele con Che male c'è, il brano che ha vinto il 34esimo Festival Bar, che si svolse la serata finale nella Piazza del Plebiscito a Napoli. Però Pino Daniele non ha vinto perché giocava in casa. E perché? Ha vinto perché era bravo e se lo meritava, ok? Va bene, questa botta napoletana di Franco Schifani, lo so che sei un fan, anch'io. Comunque estate, voglia di leggerezza, voglia di festeggiare. E in Italia c'è una persona che in questo 1997 festeggia un premio molto molto importante. Dicono di fermarsi. Guarda che cosa hai vinto. No! Oh! Che bello, Dario! No, non lo sapevo, l'ho visto adesso. Ma io non ne parlavo. Dario Fo vince il Nobel per la letteratura. Questa la motivazione, figura preminente del teatro politico che nella tradizione dei giullari medievali ha fustigato il potere e restaurato la dignità degli uomini. E la notizia gli viene data mentre è in macchina con Ambrangiolini e sta girando la trasmissione Milano-Roma. Passano gli anni, i treni topi per le fogne, i pezzi in radio, le illusioni, le cicogne. Passa la gioventù, non te ne fare un matto, lo sai che tutto cambia, nulla si può fermare. E per rimanere in tema della migliore tradizione letteraria italiana abbiamo proposto Franco Battiato con Di Passaggio. Di Passaggio. E il 15 luglio del 97 Franco, dalle tue parti, oddio, un po' più a sud, a Miami Beach, viene assassinato con due colpi di pistola davanti alla propria casa lo stilista italiano Gianni Versace. Il funerale si svolge nel Duomo di Milano e ci sono, tra gli altri, la principessa Diana, Elton John, Sting, Naomi Campbell. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered. Ecco, ma la scomparsa più clamorosa del 1997 avviene il 31 agosto, quando a Parigi, in un incidente automobilistico, la principessa del Galles, Lady Diana Spencer, muore. Nello scontro perde la vita anche il suo compagno, Dodi Al-Fayed. La ricostruzione dei tragici momenti della sua morte resta un mistero. La dinamica stessa dell'incidente, i soccorsi, i retroscena. Comunque i funerali della principessa diventano uno straordinario evento mediatico. Il 6 settembre 2 miliardi di telespettatori seguono i funerali a Londra di Lady Di e lei diventa un'icona del nostro tempo. She won't go quietly, that's the problem. I'll fight till the end. Because I believe that I have a role to fulfill. Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. And I got two children to bring up. I was reputed to have made 300 telephone calls. Ecco, è la voce di Lady Diana che dice: eravamo in tre nel nostro matrimonio, facendo riferimento appunto al suo sofferto matrimonio con il principe Carlo per la presenza di Camilla, seconda moglie di Carlo. Lady Di, infatti, verrà ricordata come la principessa triste. E il 5 settembre del 97, quindi il giorno prima del funerale di Diana, se ne va anche Madre Teresa di Calcutta. Missionaria di origine albanese, aveva vissuto la sua vita al fianco dei poveri, degli affamati, dei malati di lebbra e di AIDS. Nel 79 aveva vinto il premio Nobel per la pace e poi il 4 settembre del 2016 è stata proclamata da Papa Francesco santa. Questa è una parte dell'ultima preghiera scritta da Madre Teresa prima di morire. Un cuore puro può vedere facilmente Cristo nella persona affamata, nella persona nuda, nel senza tetto, nei solitari, negli indesiderati, nella persona non amata, nel lebbroso, nell'alcolizzato, nell'uomo sdraiato per la strada, non amato, indesiderato, affamato. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep. E questa è la tua adorata Madonna. Però con Don't Cry For Me. Non ti piace? So che ha avuto un grande successo. E finalmente ce l'ha fatta dopo tanti però a me film. Piace meno qui. Ti piace meno? Sì. A me piaceva, non so, Material Girl. Oppure Cercando Susan Disperatamente, sì, quelle sì, cose sì, lì, ho sì, capito, sì, un po' sì, più sì. trash. Però, anche. Però alla fine diciamo che questo è il film che in qualche modo la consacrazione. La consacrazione, sì. Come attrice non è mai arrivata. Non è mai arrivata, però diciamo che ha avuto un grande successo questo film, dobbiamo dirlo, ha incassato 140 milioni di dollari. Sì, diciamolo. In tutto il mondo, si è anche aggiudicata diversi premi agli Oscar di quell'anno, quindi non è stato un flop completo, anzi va bene, ha avuto successo. successo. Quindi che... lei riesce a fare il salto anche al cinema. Mentre da noi lo fa una campionessa dello sport, che è Deborah Compagnoni, perché trionfa nello slalom e vince l'oro ai mondiali di sci di Sestriere. Niente da fare, non ce n'è per nessuno. Medaglia d'oro, Deborah Compagnoni, quinta medaglia d'oro pesante per lei, 2 alle Olimpiadi, 3 ai campionati del mondo, assolutamente grande. Si conferma Deborah Compagnoni, campionessa del mondo di slalom gigante. Dopo la Sierra Nevada, anche a Sestriere si perpetua la leggenda di questa straordinaria campionessa che non ha assolutamente rivali, non c'è niente da dire. Niente rivali, Franky. Non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno. Però scusami, abbiamo un po' tralasciato l'Italia? No, assolutamente, assolutamente. No? Ritorniamo alle classifiche, però non è inglese, non è italiano, è qualche cos'altro. Vedi come parte da lontano l'amore degli italiani per i ritmi latini o caraibici? Chi sono? Dimmeli. Bailando, Paraíso e La Fortezza, To the Night. Chiappini è particolarmente orgoglioso di questo mix, va detto. Ha detto dopo questo molto. Mix mi posso anche suicidare. Dopo di questo mi licenzio, ha detto, perché è molto orgoglioso. Comunque in questo 97, Franky, noi non possiamo dimenticare che ci sono due capolavori al cinema. Il primo è questo. Il Titanic era chiamato la nave dei sogni. E lo era davvero. Ci siamo! Mio Dio! Tieni più forte! Mio Dio, Jack! Oddio! Non lasciare la mia mano! Non dimenticherò, Jack. Non ti dimenticherò, Jack. Vabbè, Franky, scritto e diretto da James Cameron, naturalmente lui è Leo DiCaprio, lei è Kate Winslet. E vabbè, è la storia grandissima del Titanic. Pensa che è stato il film più costoso mai realizzato fino ad allora. 200 milioni di dollari di budget. Ma gli americani non si preoccupano mai di quanto spendono, ma di quanto incassano. Quanto incasseranno. Che in questo frangente gli è andata bene. E beh, il secondo... maggiore incasso mondiale di tutti i tempi. E nel 2010 è sempre lui, è sempre James Cameron che batte il record con Avatar. E poi ne riparleremo per forza di Titanic, perché nel 98 agli Oscar è l'apoteosi. E poi c'è il secondo film indimenticabile di quest'anno ed è questo. Buongiorno principessa! Senti Josué, se io ritardassi di parecchio, tu non ti muovere, non uscire. Tu devi uscire, fammi sentire, devi uscire soltanto quando c'è silenzio assoluto e non vedi più nessuno, per sicurezza. La vita è bella, naturalmente, di Roberto Benigni, e il film che vanta anche lui parecchi primati. È il film italiano che ha incassato di più al mondo, 229 milioni di dollari, il più premiato agli Oscar, il più visto al suo primo passaggio TV e, fino al 2011, il film italiano di maggior incasso in Italia. E come Benigni, anche Eros Ramazzotti nel 1997, specialmente in questo Quanto amore sei, cominciano a sbancare su tutti i mercati internazionali insieme ad altri artisti tipo Zucchero, Pino Daniele, Laura Pausini ovviamente ed altri. Capito, cara Alessandra? Capito, caro Franco. Allora, Cosca, beh, mi sto preparando. Sei pronto? Sì, sono perché pronto, siamo dimmi, alla fine, vai. Di questo 1997 e come sempre la nostra adorata Antonella Migliaccio ha scelto per noi una chicca. Per chiudere, nel 1997 un gruppo rock inglese pubblica il suo terzo album, è un disco che li consacra. Il titolo dell'album è Ok Computer, loro sono i Radiohead e questa è Karma Police, perché per noi ragazze degli anni 90, e ci tiene molto a questa frase, sappilo, Antonella Migliaccio, noi avevamo dei momenti in cui ci sentivamo un po' alternative e anche un po' rock, e quindi con questa è tutto per noi per il 1997. Frankie? Ciao. Ciao a tutti, ciao da Franco Schipani. Ciao da Alessandra Fiori, a venerdì prossimo. Ciao. You